ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Portò Lizzie a pranzare al ristorante, dove ordinò vino e cibi raffinati e costosi. Poi danzò con lei e con nessun'altra tranne lei, finché Lizzie fu stanca. Martin era un bravo ballerino e lei piruettava con lui per la sala in un paradiso di gioia, la testa appoggiata alle sue spalle, desiderando che non finisse mai. Più avanti nel pomeriggio, i due si allontanarono tra gli alberi, dove, come ai vecchi tempi felici, lei si sedette mentre lui si sdraiava sulla schiena, la testa sul grembo di lei. Così disteso, Martin sonnecchiava, mentre Lizzie gli scompigliava i capelli, ne guardava le palpebre abbassate e lo amava senza riserve. Martin aprì gli occhi all'improvviso e colse quel tenero annuncio sulla faccia di lei. Allora lei chiuse gli occhi per poi riaprirli e fissare Martin con una morbida espressione di sfida negli occhi. «In tutti questi anni ho sempre fatto la brava», disse lei, con una voce così bassa che era quasi un sussurro. Martin sentiva nel suo cuore che quelle parole erano una miracolosa verità, e nel suo cuore si fece strada una grande tentazione. Era in suo potere rendere felice quella ragazza. Anche se ne aveva negato la felicità a se stesso, perché avrebbe dovuto negarla a lei? Avrebbe potuto sposarla e portarla con sé ad abitare nel suo castello, circondato di canne nelle isole Marchesi. Il desiderio di farlo era forte, ma ancora più forte era l'imperativa proibizione che gli veniva dalla sua natura. Malgrado se stesso, Martin era ancora fedele all'amore. Quei vecchi tempi, licenziosi e facili, se n'erano andati. Non poteva farli rivivere, non poteva farli tornare. Era cambiato, e quanto lo fosse, non lo aveva compreso fino a quel momento. «Io non sono un tipo che si sposa, Lizzie», disse con dolcezza. La mano che gli stava accarezzando i capelli si fermò, in modo percettibile, poi continuò con la stessa gentile pressione. Martin vide che la faccia di lei si era indurita, ma era la durezza della determinazione, perché Lizzie aveva ancora le guance colorite ed era ancora dolce e luminosa. «Non volevo dire questo», iniziò lei, poi si interruppe. «O almeno non mi importa. Non mi importa», ripeté. «Sono orgogliosa di essere tua amica. Farei qualsiasi cosa per te. Immagino di essere fatta così». Martin si tirò su a sedere, prese le mani di Lizzie tra le sue e lo fece deliberatamente, con calore, ma senza passione. E quel calore la raggelò. «Parliamo d'altro, eh?» gli chiese la ragazza. «Sei davvero una nobile creatura», le disse lui. «E sono io che devo sentirmi orgogliosa di conoscerti. E lo sono davvero. Per me tu sei un raggio di luce in un mondo cupo. Devo essere sincero con te, così come tu sei stata sincera con me. Non mi importa se sei sincero oppure no. Puoi fare quello che vuoi, puoi gettarmi nel fango, calpestarmi, e sei il solo uomo al mondo che può farlo», aggiunse lei con un lampo di orgoglio. «Non mi sono mica presa cura di me fin da quando ero una bambina, per niente. E questo è proprio il motivo per cui non farò nulla del genere», le disse Martin con gentilezza. «Sei così forte e generosa che mi sfidi a essere altrettanto forte e generoso». «Non ho intenzione di sposarmi, non voglio». «Beh, non voglio avere una relazione senza sposarmi, anche se in passato l'ho fatto molto spesso. Mi dispiace di essere venuto qua oggi e di averti incontrato, ma non possiamo farci niente. E io non avrei mai pensato che le cose sarebbero andate così. Ma ascoltami, Lindsay. Non ha senso che io ti dica quanto mi piaci. Ciò che provo per te è molto di più. Provo ammirazione, rispetto. Sei una persona magnifica e sei buona in modo magnifico. Ma che senso ha parlarne? Eppure, mi piacerebbe poter fare qualche cosa. Hai avuto una vita dura. Lascia che te la renda più facile. Una luce di gioia si accese negli occhi di Lizzy e poi svanì. Sono pressoché certo di guadagnare parecchi soldi, davvero parecchi, e dentro breve tempo. Martin abbandonò l'idea di comprarsi la vallata e la baia, il castello dalle mura di canne e l'elegante bianca goletta. Dopotutto, che importanza aveva? Poteva imbarcarsi come marinaio semplice, cosa che aveva fatto spesso, su una qualsiasi nave, che fosse diretta da qualsiasi parte. Mi piacerebbe che anche tu potessi beneficiarne. Deve esserci qualcosa che vuoi. Andare a scuola? O frequentare un istituto professionale? Forse ti piacerebbe studiare e imparare la stenografia. Posso sistemare tutto io per te. Oppure tuo padre e tua madre sono ancora vivi. Potrei aprirgli una drogheria o qualcosa di simile. Qualsiasi cosa tu voglia. Basta che tu me lo chieda e io sistemo tutto. Lizzy non rispose, ma rimase seduta con lo sguardo fisso davanti a sé, senza piangere e senza muoversi. Ma aveva un dolore in gola così violento che Martin lo percepì con una forza tale da sentirlo a sua volta. Adesso si vergognava di quello che aveva detto. Gli sembrava così meschino ciò che l'aveva proposto. Mero denaro paragonato a quello che lei gli aveva offerto. Lui le aveva promesso una cosa estranea dalla quale si separava senza dolore, mentre lei gli aveva offerto se stessa. La disgrazia, la vergogna, il peccato e la perdita del paradiso che ne conseguivano. «Non parliamone più», concluse Lizzy con una incrinatura nella voce che mascherò con un colpo di tosse. Si alzò. «Avanti. Andiamocene a casa, eh? Sono proprio stanca». La giornata era finita e l'allegra compagnia si stava sciogliendo. Ma quando Martin e Lizzy emersero dagli alberi, trovarono la banda ad aspettarli. Martin ne comprese immediatamente il significato. Dovevano esserci dei guai in vista, perché la banda era la sua guardia del corpo. E infatti uscirono dal cancello del parco, pedinati nelle retroguardie da un'altra banda. Erano gli amici che l'uomo di Lizzy aveva radunato per vendicarsi della perdita della sua donna. Diverse guardie e alcuni ufficiali di polizia, presentendo guai e volendoli prevenire, raggiunsero le due bande e le accompagnarono, tenendole separati, al treno per San Francisco. Martin disse a Jimmy che sarebbe sceso alla stazione della 16ª strada e lì avrebbe preso il tram per Oakland. Lizzie era molto tranquilla e non mostrava alcun interesse per la minaccia che incombeva su di loro. Quando il treno si fermò alla stazione della 16ª strada, il tram era già lì, in attesa, e il conducente suonava la campanella con impazienza. «Eccolo lì! Correte a prenderlo, che noi li tratteniamo!» fu il consiglio di Jimmy. «Su, adesso! Andate! E saltateci sopra!» Per un attimo, la banda avversaria restò disorientata dalla manovra. Poi si lanciò giù dal treno all'inseguimento. La gente posata e seria di Oakland, che sedeva sul tram, notò appena il giovane e la ragazza che correvano per salirvi e trovavano posto nella parte anteriore, sul sedile esterno. Nessuno mise in relazione quei due con Jimmy, che balzò sul predellino gridando al manovratore: «Forza con le macchine! Vecchio! Battiamocela!» L'attimo successivo, Jimmy piroettò su se stesso e i passeggeri lo videro depositare un pugno sulla faccia di un uomo che stava cercando di salire sul tram. Pugni, dall'altra parte, venivano generosamente dispensati per l'intera lunghezza della vettura. Così, infatti, Jimmy e la sua banda avevano accolto l'attacco della banda rivale, disponendosi in fila sul lungo gradino inferiore del veicolo. Il tram si mise in moto con un potente scampanellio e i difensori di Martin, pur avendo allontanato anche l'ultimo assalitore, saltarono giù per finire il loro lavoro. Il tram continuò la sua corsa, lasciandosi la furia del combattimento alle spalle. I passeggeri, ammutoliti, non avrebbero mai potuto immaginare che quel tranquillo giovanotto e quella giovane operaia così carina che gli era accanto, seduti nell'angolo esterno del tram, fossero stati la causa della rissa. Il combattimento aveva divertito Martin. Gli aveva permesso di provare di nuovo la tensione di una volta. Ma era durato poco e adesso si sentiva oppresso da una grande tristezza. Si sentiva molto vecchio, secoli più vecchio di quegli indifferenti, irresponsabili giovani compagni di quell'altra sua vita. Da allora aveva viaggiato molto, era andato troppo lontano per tornare indietro. Il modo in cui vivevano quei giovani, che un tempo era stato anche il suo, ora lo disgustava. Era deluso da tutto. Ormai era uno straniero. Come la birra da poco gli sembrava amara, così quella compagnia gli sembrava amara. Era andato troppo lontano. Tra lui e gli amici di un tempo c'era il baratro, formato dalle troppe migliaia di libri che aveva aperto. Si era esiliato con le sue stesse mani. Si era addentrato a tal punto nel vasto regno dell'intelletto che non poteva più tornare a casa. D'altro canto, era pur sempre un essere umano, e il suo istinto gregario, che lo spingeva a cercare dei compagni, era frustrato. Non aveva trovato una nuova casa. La ragazza di fianco a lui, che stimava profondamente, non lo capiva, come d'altra parte non lo capiva la sua banda, come non lo capiva la sua stessa famiglia, come non lo capiva la borghesia. Mentre vi rifletteva, l'amarezza si mescolò alla sua tristezza. «Fai pace con lui», fu il consiglio che Martin diede a Lizzie mentre si salutavano di fronte al misero caseggiato operaio dove lei abitava, vicino alla Sesta e a Market Street. Si riferiva al giovane al quale quel giorno aveva usurpato il posto. «Non posso ora», le rispose. «Oh, avanti», la esortò lui con allegria. «Devi solo fischiare e arriverà correndo. Non volevo dire questo», lei disse semplicemente, e Martin sapeva che cosa lei avesse voluto dire. Al momento dei saluti, Liz si sporse leggermente verso di lui, ma non lo fece con arroganza o seduzione, lo fece piena di desiderio e di umiltà. Martin ne fu toccato fin nel profondo. La comprensione che provava per i suoi simili si gonfiò in lui e lo spinse ad abbracciarla e a baciarla. Sulle sue labbra si posò il bacio più sincero che uomo abbia mai ricevuto. «Mio Dio!» singhiozzò Lizzy. «Morirei per te! Morirei per te!» Si strappò dalle braccia di Martin e corse su per i gradini. Lui si accorse di avere gli occhi umidi. «Martin Eden!» dichiarò. «Tu non sei un bruto. Sei solo un povero, miserabile discepolo di Nietzsche. Se potessi, sposeresti Lizzy e riempiresti di felicità quel suo cuore palpitante, ma non puoi. Non puoi. Ed è una schifosa vergogna.» «Un povero vecchio vagabondo descrive le sue povere vecchie ulcere», mormorò Martin, ricordandosi la ballata di Henley. «La vita, secondo me, è uno sbaglio ed una vergogna. È proprio così. È uno sbaglio. È una vergogna.» Vergogna del sole fu pubblicato in ottobre. Quando Martin tagliò la corda che chiudeva il pacco espresso e una mezza dozzina di copie omaggio inviate dall'editore si sparsero sul tavolo, gli cadde addosso una pesante tristezza. Pensò alla folle gioia che avrebbe provato se ciò fosse accaduto solo qualche breve mese prima e non poté non confrontarla con la fredda indifferenza che invece sentiva in quel momento. Il suo libro, il suo primo libro, e il suo cuore non aveva accelerato neppure di una frazione di battito. L'unica emozione che provava era la tristezza. Quel libro significava così poco per lui ora. Tutt'al più avrebbe potuto portargli un po' di denaro, ma gli importava ben poco, anche dei soldi. Martin ne portò una copia in cucina e la mostrò a Maria. «L'ho scritto io», le spiegò, per calmarne l'agitazione. «L'ho scritto in quella stanza qui dietro e credo che una parte delle tue zuppe di verdura abbia contribuito alla sua realizzazione. Prendilo. E tu, così, tra molti anni, potrai ancora ricordarti di me.» Martin non si stava dando delle arie. Lo faceva soltanto per rendere Maria felice, orgogliosa di lui, per mostrarle che aveva avuto ragione ad aver fiducia in lui. E la donna mise il libro nel tinello, sopra la Bibbia di famiglia. Era qualcosa di sacro, quel libro fatto da un suo inquilino, un feticcio della loro amicizia. Leniva un po' la delusione che aveva provato quando aveva scoperto che era stato un umile lavandaio. E Maria, sebbene non fosse in grado di comprendere neppure una delle parole contenute in quel libro, capiva che ognuna di esse era importante. Era una donna semplice, uno spirito pratico, una donna che lavorava duramente, ma credeva che i miracoli avvenissero davvero. Con la stessa indifferenza con la quale aveva ricevuto la vergogna del sole, Martin leggeva le recensioni sul suo libro che gli venivano inviate ogni settimana dall'agenzia stampa. Era chiaro che il libro aveva avuto successo e ciò significava più oro nel sacco delle monete. Poteva sistemare Lizzy, esaudire tutte le promesse che aveva fatto e gli sarebbe rimasto denaro sufficiente per costruire il suo castello dalle pareti di canne. Per prudenza, la Singletree, Darnley & Company, aveva stampato una prima edizione di 1500 copie, ma le prime recensioni l'avevano spinta a mettere in stampa una seconda edizione, il doppio della precedente. consegnata anche questa, si era immediatamente reso necessario stampare una terza edizione di 5.000 copie. Una casa editrice di Londra prese accordi via telegrafo per un'edizione inglese e subito dopo giunse la notizia che erano in corso traduzioni in francese, tedesco e nelle lingue scandinave. L'attacco alla scuola di Metternich non avrebbe potuto essere pubblicato in un momento migliore perché offrì carburante per una violenta controversia. Saleby ed Haeckel sottoscrissero e difesero la vergogna del sole, ritrovandosi, per una volta almeno, sullo stesso lato della barricata. Crookes e Wallace si schierarono dalla parte opposta, mentre Sir Oliver Lodge cercò di formulare un compromesso compatibile con le sue particolari teorie cosmologiche. I seguaci di Metternich si strinsero intorno al maestro e al suo misticismo. Chesterton fece ridere il mondo intero con una serie di saggi sull'argomento che pretendevano di non essere di parte, e l'intera questione, la controversia e tutti coloro che vi partecipavano fu pressoché gettata nella spazzatura da un violento attacco di George Bernard Shaw. Inutile dire che ospiti di minor fama affollarono l'arena e che la polvere, il sudore e il fracasso divennero impressionanti. «È accaduto qualcosa di incredibile», scrisse la Singletree, Darnley e Company a Martin. «Un saggio di critica filosofica sta vendendo come un romanzo. Lei non avrebbe potuto scegliere un soggetto migliore. Tutti i fattori collaterali ci sono stati costantemente favorevoli. Non vi è forse bisogno di dirle che stiamo raccogliendo il grano finché è maturo. Più di 40.000 copie del suo libro sono già state vendute negli Stati Uniti e in Canada, e una nuova edizione di 20.000 copie è in stampa. Lavoriamo giorno e notte per riuscire a soddisfare la domanda. Ciò nonostante non noi stessi abbiamo aiutato a creare questa domanda. Abbiamo già speso $5.000 in pubblicità. Il suo libro è destinato a battere tutti i record delle vendite. Ci prendiamo la libertà di inviarle un contratto in duplice copia per un suo prossimo libro. Vorrà notare che abbiamo portato la sua percentuale al 20%, cifra che rappresenta il massimo al quale possa arrivare una casa editrice conservatrice come la nostra. Se questa offerta è di suo gradimento, la preghiamo di inserire nell'apposito spazio il titolo del suo nuovo libro. Non le poniamo clausole sulla natura del suo prossimo lavoro. Qualsiasi libro, su qualsiasi argomento. Se ne ha già scritto uno, ancora meglio. Ora è il momento di colpire. Il ferro non potrebbe essere più caldo. Non appena riceveremo il contratto firmato, sarà nostro piacere inviarle un anticipo sui diritti di $5.000. Come vede, crediamo in lei e abbiamo intenzione di sostenerla in questo grande progetto. Ci piacerebbe discutere con lei lo schema di un contratto pluriennale, diciamo per una decina d'anni, durante il quale ci concederà in esclusiva il diritto di pubblicare sotto forma di libro ogni sua creazione. Ma di ciò parleremo più avanti. Martin depose la lettera e affrontò mentalmente un problema di aritmetica. Scoprì che 15 centesimi moltiplicati per 60.000 copie dava come risultato $9.000. Firmò di nuovo il contratto scrivendo gioia e cenere nello spazio vuoto e lo rispedì alla casa editrice insieme ai 20 racconti che aveva scritto prima di scoprire la formula delle novelle per i quotidiani. L'assegno da $5.000 della Singletree, Darnley e Company arrivò con la massima velocità consentita dalle poste degli Stati Uniti. «Voglio che tu venga in centro con me, Maria, questo pomeriggio.» «Verso le 2», disse Martin, la mattina in cui arrivò l'assegno. «Anzi, meglio, incontriamoci all'angolo tra la 14ª e Broadway, alle 2 in punto. Sarò lì ad aspettarti.» All'orario stabilito, Maria era lì. Scarpe era l'unico indizio che la sua mente fosse stata capace di elaborare a proposito di quel misterioso appuntamento. E così la donna si sentì turbata e delusa quando Martin ignorò un negozio di scarpe per introdurla negli uffici di una società immobiliare. Ciò che accadde da quel momento in poi è conservato per l'eternità nella sua memoria, come un sogno. Eleganti gentiluomini le sorridevano con benevolezza mentre parlavano tra loro e con Martin. Si sentiva il ticchettio di una macchina per scrivere, si apponevano firme su documenti dall'aria solenne, anche il suo padrone di casa era lì e anche lui apponeva delle firme. Quando tutto finì, e si ritrovò di nuovo fuori sul marciapiede, il padrone di casa si rivolse a lei, dicendole: «Bene, Maria, sembra che questo mese non mi dovrai pagare i $7.50 dell'affitto». Maria era troppo confusa per parlare, e neppure il mese prossimo, e neppure quello dopo, e quello dopo ancora, aggiunse. Maria ringraziò affannosamente, come se le stesse facendo un favore. Fu solo dopo essere tornata a North Oakland, dopo aver conferito con i suoi simili, e dopo le indagini del droghiere portoghese, che seppe di essere diventata la proprietaria della piccola casa in cui viveva e per la quale pagava da anni e anni l'affitto. «E perché non fa più affari con me?» chiese il droghiere portoghese a Martin quella sera, uscendo dal suo negozio per bloccare l'antico cliente mentre scendeva dal tram. Martin spiegò che non si preparava più da mangiare da solo e poi entrò nel negozio a bersi un bicchiere del vino della casa. Notò che si trattava del miglior vino che il droghiere avesse in magazzino. «Maria», annunciò Martin quella sera, «presto ti lascerò, ma anche tu presto lascerai questo posto. Adesso che ne sei la padrona puoi affittare la casa. Hai un fratello a San Leandro che lavora nel campo del latte. Voglio che tu rimandi indietro tutto il ducato che hai ancora in casa, così com'è, hai capito? Proprio così com'è. E che domani stesso tu vada da tuo fratello a San Leandro, o ovunque sia, digli che voglio incontrarlo. Sarò al Metropol giù ad Oakland. Sarà capace di distinguere un buon allevamento di mucca da latte, quando ne vede uno». E fu così che Maria divenne proprietaria di una casa e di un caseificio, con due operai salariati che la sollevavano da ogni lavoro, e un conto in banca che si accresceva costantemente, nonostante tutta la sua nidiata fosse provvista di scarpe e andasse a scuola. Poche persone nella loro vita incontrano il principe dei loro sogni. Maria, che aveva sempre lavorato duramente, era sempre stata concreta e non aveva mai sognato di imbattersi in un principe delle fiabe, aveva incontrato il suo sotto forma di ex lavandaio. Nel frattempo, il mondo aveva cominciato a chiedersi chi fosse Martin Eden. Martin si era rifiutato di dare qualsiasi informazione biografica al suo editore, ma i giornali non accettavano un rifiuto. Oakland era la sua città e i cronisti vi scovarono frotte di individui che potevano fornire loro delle informazioni. Tutto ciò che Martin era e non era, tutto ciò che aveva fatto e la maggior parte di ciò che non aveva fatto, fu esposto per il diletto del pubblico, accompagnato da scatti rubati e fotografie in posa. A queste ultime provvide il fotografo locale, il quale, in passato, aveva ritratto Martin e che, con grande prontezza, ma previa registrazione dei suoi diritti d'autore, aveva messo quelle foto sul mercato. All'inizio Martin, profondamente disgustato dai giornali e dalla società borghese, cercò di opporsi a tutta quella pubblicità e poi, anche perché era la cosa più facile, si arrese. Scoprì che non poteva rifiutarsi ai giornalisti che percorrevano lunghe distanze per incontrarlo. E poi, in ogni giornata, c'erano molte lunghe ore e, dato che non erano più occupate dallo scrivere e dallo studiare, dovevano pur essere riempite in qualche modo. E così Martin si sottomise a ciò che per lui era un capriccio, lasciandosi intervistare, dando opinioni sulla letteratura e sulla filosofia e accettando persino gli inviti della borghesia. Si ritrovava adagiato in uno stato mentale confortevole e strano. Non aveva più preoccupazioni, aveva perdonato tutti, persino il giovane cronista che lo aveva dipinto come un sovversivo. Anzi, concesse proprio a quel ragazzo un'intervista che occupò una pagina intera, accompagnata da alcune foto appositamente scattate. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London, regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it